piacere del dubbio. Di Gianluca Nicoletti. Molti bagnanti hanno già approfittato del sole estivo per prendere le misure con la nuova vita al mare. Così si presentava in questa prima domenica la spiaggia libera del Muraglione in Darsena Viareggio. Credevo fosse quasi utopico quest'anno, invece per fortuna siamo riusciti a ritagliarci, si spera, uno spicchio per tutta la stagione in modo tale da potersi godere sole e mare. Inizialmente, diciamo, al pensiero avevo qualche dubbio. Adesso che mi ritrovo a vivere la situazione, devo dire che mi sento tranquilla. Si può stare distanziati, si può stare in sicurezza, i sistemi per pulire, tenersi igienizzati e tenersi puliti ci sono. Ci siamo guardati, abbiamo visto dove ci si poteva mettere senza, insomma, persone accanto alla giusta distanza. Servirebbero regole più chiare qui o no? Sicuramente sì, perché per il momento non si capisce niente, quindi non si sa niente di preciso, ognuno fa a modo suo, sperando, ti ripeto, sempre che si riescono a tenere le distanze, almeno quello. Ma io è il secondo giorno che vengo, vedo che stanno abbastanza distanziati, speriamo bene. Queste erano delle testimonianze di persone in spiaggia, una spiaggia libera a Viareggio, il 24 maggio, il giorno in cui si è cominciato le persone questo, a sentire che sembra quasi che non sia accaduto nulla, che si possa tornare tranquillamente alle solite abitudini. È preso dal canale YouTube Noi TV Rete Versilia e parla della spiaggia libera di Viareggio. Mentre andava in onda questo servizio, già vedo due messaggi che sono la sintesi di quello che voglio dire, o per noi cerco di capire oggi in questa trasmissione. Sono Lara e Sabrina che scrivono sul canale di Telegram Melog ha parlato. Lara dice: io sono ancora indecisa, quale regole cambiano ogni giorno, attendo di capire come si evolve, soprattutto per le spiagge libere. Quindi Lara è una persona che era abituata ad andare in spiaggia seguendo il principio della libertà, non cercava luoghi affollati, luoghi promiscui. Comunque sia, come ha sentito in questo servizio, sa che anche nelle spiagge libere non ci sarà più la libertà di prima, ma logicamente anche quelle saranno regolamentate. Sabrina, al contrario, dice: me ne stavo a casa pure prima, quello che mi spiace è che si perderà quell'effetto città deserta, e profetizzando che le città saranno molto più affollate. Perché il grande dilemma in questo momento, fra i tantissimi problemi che ci sono di ordine economico, di ordine sanitario, è quello che siamo abituati comunque a dare un senso diverso ai mesi dell'estate e comunque pensiamo che è un nostro diritto, diritto della nostra famiglia, dei bambini che sono stati a casa, insomma un po' di tutti, di usare i mesi estivi nella percentuale, nella porzione che a noi sarà concesso per il nostro budget, per la nostra possibilità d'acquisto, di andare comunque a passare dei giorni in qualcosa che assomigli al concetto tradizionale di vacanza. Oggi di questo vorremmo parlare. Quanti nel bilancio che stanno facendo in questo momento, considerando tutti i fattori, decideranno di affrontare comunque il tema vacanze con tutte le difficoltà indubbie e che poi mutano ogni giorno nelle regole, nei regolamenti, nelle disposizioni, quanti invece hanno già fatto conto che per quest'anno si rimane a casa e quindi bisogna organizzarsi in città. Guardate che è cruciale questo tipo di risposta, a quello che rispondete voi cercheremo di capire come si orienterà il paese. Ancora ci manca qualche giorno fino a una sorta di verdetto finale per capire cosa succederà. Potremmo varcare i confini delle nostre regioni e quindi possiamo organizzarci. Rimarremo nelle nostre regioni e quindi gioco forza, c'è poco da organizzarci, questo sarà, ce ne staremo tutti dentro casa tranquilli e ci organizzeremo, non lo so, faremo gli aperitivi a distanza, faremo le movide in non mobilità, qualcosa del genere. Quindi preparatevi, 800 24 00 24, come state affrontando comunque il problema estate. Non lo chiamo vacanze, perché vacanze sembra quasi una parola piena di lussure che non ci possiamo permettere. Comunque il tema estate, l'estate fa caldo, l'estate uno ha bisogno un attimo di respirare un'aria diversa, voi come vi state organizzando? Chi abita le mie latitudini, naturalmente, se pensava di poter accedere come Molti romani facevano alle cosiddette spiagge libere, a quei ritagli di spazio dove c'è forse meno carnaio, dove si può stare più liberi, dove ci si può smutandare, dove si può pensare che ancora sia un mare frequentabile, quello del litorale romano. Beh, invece abbiamo visto ieri nel sito del Comune di Roma quello che è il piano strategico Roma Estate 2020. Ve lo faccio ascoltare, lo abbiamo letto e interpretato, perché i messaggi che ho visto nella pagina Facebook del Comune che commentavano questo piano mi fanno pensare che molti romani preferiranno rimanere in città. Il Comune di Roma dà ufficialmente avvio al piano strategico stagione balneare 2020 per consentire ai cittadini un accesso alle spiagge in totale sicurezza e nel rispetto delle regole previste dalle norme nazionali e regionali. Per l'esecuzione del suddetto piano strategico sono state individuate una serie di azioni e misure che mirano a un controllo diretto delle spiagge libere. In primo luogo, dovranno essere installate delle paline in legno, colorate in bianco e rosso, che indicheranno dove stazionare e quindi lo spazio disponibile nelle spiagge. Ogni palina garantirà l'utilizzo di uno spazio di 25 metri quadri e potrà contenere al massimo 6 persone. Il litorale romano sarà suddiviso in 3 settori. Ogni settore conterrà più spiagge e ogni spiaggia conterrà uno o più barchi. In tutto i barchi saranno 22 e saranno presidiati da un operatore che controllerà sia le persone in entrata che in uscita, inserendo su un palmare i dati delle presenze in tempo reale. Sono state inoltre individuate 2 grandi aree di parcheggio, che consentiranno ai visitatori di parcheggiare la propria auto e spostarsi lungo il litorale prendendo la bicicletta o il monopattino elettrico in modalità sharing. Per assicurare il rispetto del distanziamento fisico, verranno inoltre effettuate verifiche da controllori, alcuni dei quali a bordo di un potente quad, che percorreranno le spiagge e il litorale in tutta la sua lunghezza, impedendo eventuali assembramenti sull'arenile e perniciosi atteggiamenti promiscui dei bagnanti. .00024 abbiamo calcato un po' la mano, l'abbiamo sceneggiato, abbiamo messo un tono epico, ma in realtà il proclama o il piano strategico Roma Estate è esattamente questo, non cambia, quindi le spiagge libere, ma gioco forza, potrebbe far ridere le guardie che girano, i paletti, le zone delimitate, ma se si vuole mantenere i livelli di sicurezza, questo deve essere, non può essere nulla di diverso, e quindi per forza i romani dovranno adattarsi. Quanto pensate che questo possa aiutarvi o incentivarvi ad avere comunque una possibilità di andare in vacanza, o quanto pensate che alla fine, viste le cose stanno così, ma chi se ne importa, ce ne rimaniamo a casa? 800240024, Michele Bianchi, buongiorno. Buongiorno Gianluca, come stai? Noi qui... tiriamo avanti, lei è stato già ospite di una nostra trasmissione, quindi ci siamo già sentiti, e ci ricorda esattamente lei qual è il suo mestiere e dove opera, così almeno la inquadriamo. Io sono un balneare, praticamente uno stabilimento balneare, sono a Fregene, sono titolare dell'Engelus, una spiaggia, ex spiaggia attrezzata che è passata a stabilimento, con praticamente tutte le problematiche del caso che portiamo adesso con il nuovo Covid. Il vostro slogan era il relax fino all'anno scorso, no, almeno questo. Sì, relax, venite, cioè l'ingresso era libero, non c'erano assolutamente nessun tipo di problemi, nessun tipo di paletti per la gente. Si voleva, e poi quest'anno ci saranno i paletti, ha visto? Mi sembra la problematica di questo qui, per esempio, ecco, quello è un problema grosso, che ognuno sta facendo praticamente la legge sua, ogni sindaco, ogni regione da fuori un editto, diciamo, un regolamento. Qui noi questo però l'ha fatto il comune, quello che abbiamo noi fatto leggere. Ma il comune di Roma, perché noi siamo sul comune di Fiumicino, che è un altro comune. E il comune di Fiumicino come si sta organizzando? Il comune di Fiumicino si è organizzato con dei volontari. Inizialmente avevamo trovato un accordo col comune, noi balneari, che facciamo la gestione delle spiagge col preposizionamento delle attrezzature in modo da contenere tutta l'orda di gente che veniva il sabato e la domenica. Perché ve l'aspettate, poi... già c'è stato, diciamo, è quella che chiama l'orda, sì, i vostri clienti gente... ci sono stati abbondantemente quest'ultimo fine settimana, quindi si presuppone che la gente ci andrà al mare comunque. Ma la gente viene al mare, ma sembra che non è successo niente, cioè qui non si può assicurare... Questo preoccupa anche voi, diciamo, non è che voi alla fine siete contenti di questo. Perché il contagio, tutto il resto, la gente ormai... le mascherine, ecco, ce ne ho quattro davanti, su quattro ragazzi ce l'ha uno, e gli altri ce l'hanno così, entrano nel bar ogni volta, gli direi. Ecco, lei come si sta organizzando? Come sta trasformando il suo impianto anglose di impianto? Sto facendo un distanziamento per quanto riguarda gli ombrelloni. Praticamente la distanza minima sarebbe 3 metri per ogni ombrellone, perché poi dopo deve formare un quadrato di 10 metri quadrati, quindi 3 metri da uno all'altro per la fila e 3 metri 80 dietro. Invece do 3 metri e 50 per 4 metri, in modo che ci sia una distanza buona, che se qualcuno viene in più si può mettere. Quindi preferite lievemente abbondare rispetto alle norme per stare più sicuri, poi sapendo che la gente in qualche maniera non ne terrà conto. Parliamoci chiaro, cioè, se qui parte la pandemia, il contagio non è che sia una cosa bella. Nessuno vuole del male agli altri al punto tale di dire pur che vengano, poi non mi interessa. Allora, resta un attimo in linea, Michele, perché stanno chiamando altre persone. No, resta in linea, continuerò a parlare anche con te. Altre persone da altre zone d'Italia. Vorrei chiamassero anche, diciamo, gli ascoltatori che si stanno organizzando per andare in vacanza. Noi abbiamo sentito un imprenditore che si sta in qualche maniera attrezzando per essere in linea con quello che è il principio di sicurezza. Ma poi le persone dovranno comunque stare entro queste regole. Una vacanza estremamente regolamentata corrisponde all'idea di vacanza. Non pensiate che poi andate e fate quello che pensate meglio fare o vi aggrada di più, o poi sono bambini, sono ragazzi e via dicendo. Non può essere così. Pierpaolo da Bologna, buongiorno. Buongiorno. Sì, io confermo quello che sta dicendo lei. Infatti proprio per questo motivo, cioè non ha senso a mio avviso andare dove purtroppo mi dispiace per l'imprenditore, ma sicuramente tanti lo faranno, quindi comunque ci saranno, però non ha senso andare in un posto in cui la socializzazione è la prima cosa, perché al mare è la socializzazione la prima cosa, non c'è nient'altro. Al mare soprattutto si va, almeno nelle spiagge nostrane, per incontrare persone, per divertirsi, esatto, per fare cose. Esatto, quindi senza socializzazione non c'è mare, non c'è divertimento. Litorale romano poi non è che la gente va per fare il bagno. Io va sono dell'Emilia Romagna, puoi immaginare. Sì, sì. Senza salutazione non esiste neanche il concetto di ferie al mare, però naturalmente però comunque per l'amor di la vita comincia dalla spiaggia in su, non dalla spiaggia in giù, diciamo la verità, uno ce l'ha per quello. Assolutamente, e niente, io proprio per questa scelta, se potrò a livello di legge, cioè a livello di regolamentazione e a livello economico, se potrò io mi isolerò in montagna. Quindi fa la scelta della montagna. Sì, poi toccheremo anche il tema montagna, perché oggi parliamo di mare, ma tocchiamo anche la montagna, perché in montagna sì, ci sono le distese, i prati e le passeggiate, ma anche le vie d'accesso a questi posti in qualche maniera vanno regolamentati. Rocco da Palermo, buongiorno. Dottor Milan, che piacere. Sì. Vabbè, mi dica, sì, mi dica. Milan non lo so fare, Giannino è più facile. Praticamente la mia soluzione è stata logica, ovviamente lei l'ha suffragato con quello che sta dicendo insieme all'imprenditore, molta regolamentazione, per cercare di essere quanto più vicini a una vacanza giusto da non traumatizzare i nostri figli. Ho pensato bene, ho anche la fortuna di abitare a Palermo, di prendere una casettina in affitto, una villettina vicino al mare. Ovviamente mi sono mosso con molto anticipo, perché penso che questa soluzione non sarò l'unico. No, ci stanno pensando tutti, prendere la casetta. Okay. Sì. Ho avuto la fortuna di trovarla e ho avuto anche la fortuna di avere un bellissimo rapporto con mio cognato, mia cognata, quindi dividiamo spesso le vacanze, i posti dove andiamo, e questo ci permette, siamo congiunti, quindi non dovremmo fare reato, okay. E dividere così anche questa bella villa. Sì, una casetta con accesso al mare, se no non cambia allora, niente. Non è, beh, insomma, guardi, è vicino, non so se lei conosce la località di Capaci, che magari è famosa per altro. Sì, no, conosco, tutte le volte che uno arriva a Palermo ci passa per forza. Le posso dire che sono decine e decine di piccole spiaggette, una vicino all'altro, e le soluzioni le posso dire che si trovano se uno si trova vicino. Sì, ma dicevo, comunque sia, anche la spiaggetta, verde, la spiaggetta piscina, da cui accede alla sua villetta. Ma a volte... Dovrà usare le stesse misure di sicurezza. Prima o poi il comune di Capaci sarà costretto a mettere anche lui i paletti, le guardie che circolano, il distanziamento. Non è che saranno una zona franca, su questo volevo farvi riflettere. si spera che non ci siano zone franche, che i regolamenti per quanto duri valgano per tutti. Manuela, la provincia di Udine, Manuela. Sì, buongiorno. Io sì. avevo già, diciamo, da un po' prenotato a Corvara, da quelle parti, in Valbadia. E sì. Poi, presa dalla paura, naturalmente, ho dato disdetta, è una cosa bella, senza penali, senza nessun problema, e questa è già una bella conquista. Poi adesso ci ho ripensato e ho riprenotato, e devo dire che ho trovato condizioni buone per un hotel di 4 stelle, e l'unica cosa che non si sa se si potrà usare il centro estetico, la vasca idromassaggio. In questo caso mi hanno detto che mi faranno... Quante ne vuole anche la vasca idromassaggio? Probabilmente no, penso. Sì, mi faranno un ulteriore sconto, mi hanno detto. Però devo anche premettere che io viaggio sola, sono solitaria e un po' orso. Anche perché le vasche idromassaggi non è che sono monoposto. C'è una vasca, entrano 5-6 persone. Sì, ma io ho sempre cercato orari in cui non c'è nessuno. Dicevo, sono solitaria. E non è che posso cambiare l'acqua e igienizzare ogni persona che esce, entra, capito? No, comunque mi è successo, vabbè, adesso non succederà più. Ma dico, comunque in queste condizioni non mi trovo male, perché le dicevo, sono solitaria, per cui ho sempre cercato di stare lontana dalla gente. Vabbè, se lei le piace stare lontano dalla gente, questa sarà la sua vera vacanza. Ci fermiamo solo un istante, devo dare la linea, fra un istante. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presento. Melog. In questo stabilimento si erano portati avanti con il lavoro, ma ora dovranno rivedere tutto alla luce delle nuove linee guida ufficiali dell'INAIL. Sono nuove regole per le spiagge. Non basteranno 3 metri, la distanza tra le file degli ombrelloni dovrà essere di almeno 5 metri. Stabilimenti aperti solo con entrata su prenotazione, igienizzazione obbligatoria dei lettini per ogni nuovo utente. Da evitare inoltre attività sportive e giochi di gruppo sulla battigia, possono dar luogo ad assembramenti. 800240024, avete sentito? Questo era dal TG3, quelle che sono linee guida INAIL per gli stabilimenti, che cambiano continuamente, però il succo è quello: evitare le possibilità di promiscuità, quindi non si gioca a pallavolo, non si gioca a racchettoni, che Dio, qualche vantaggio c'è su questo, i bambini non giocano a biriglia, piastrelle, non fanno i castelli di sabbia, insomma se ne sta lì inchiodati, imbullonati sui lettini e si guarda il mare e che ne so, si pensa alla propria vita. Intanto ringrazio chi mi mette in onda, da Milano Roberta Frisani e Mirella Lucchetti, da Roma Alessandro Chiappini e Fabrizio Intonti, che è come me blindato a casa sua e ci rimarremo tutta la vita perché ci sta bene così. Stavamo parlando con Michele Bianchi, che è titolare dello stabilimento balneare in Lus di Fregene, che ci diceva come si sta organizzando lui. Ha sentito Bianchi quelli che sono i commenti da tutta Italia che stanno arrivando? Le persone stanno cominciando a optare, o dice, o andarsene in montagna o starsene a casa. Andare al mare può sembrare un po' difficoltoso. Cosa da dire lei come possibile incentivo? Sarà sempre un mare condizionato, ma sempre meglio che starsene a casa, probabilmente. Sì, pienamente d'accordo con voi. L'unica cosa è che a noi, oltre a tutte queste regole che ci stanno imponendo, tra un cambiamento e l'altro di legislatura, abbiamo anche il problema che non abbiamo ancora il rinnovo delle concessioni. Ovviamente le proroghe sono state date in alcune regioni, in altre no. E noi senza... Vabbè, non è che adesso vi fanno fare tutti i lavori di adattamento, poi vi dicono non è più vostro. Penso che per quest'anno passerà così, no? Però per il Lazio siamo così. Noi abbiamo le concessioni in scadenza al 31 di dicembre. Quindi adesso anche gli sforzi, la sanificazione, mettere persone all'entrata, cioè pulire, fare, significa un costo più alto. Cioè lei sta investendo su una concessione che non sa se ancora è di sua competenza? No, praticamente. Anche perché non posso fare accesso a nessuno. Ah, certo, perché non c'è neanche il discorso di arrivare a un prestito dello Stato, perché io avendo la concessione in scadenza non posso fare nulla. Cioè se magari riuscissimo che anche il Lazio entrasse dentro quel discorso della proroga, l'applicasse, questa legge già c'è, per noi sarebbe già... Io penso che io adesso non posso sostituirmi agli amministratori, però in questo momento mi sembra abbastanza scontato che non si faranno cambiamenti, perché se vi state già attrezzando e state già organizzandovi, come si fa poi a dirvi no? Ma noi siamo obbligati ad aprire, parliamoci chiaro. Certo. Cioè, noi dobbiamo aprire perché dobbiamo dare un servizio all'utenza, perché il discorso dello stabilimento balneare è nato per dare un servizio, quello che praticamente il comune non riesce a fare, ha dato le spiagge in concessione, quindi l'assistenza a bagnanti, la pulizia, tutto il resto. E quest'anno ci sarà anche il discorso del non assembramento, di in qualche modo riuscire. Senta, ma come vi organizzate, scusate, per il non assembramento, che mi sembra una cosa difficile? Cioè, abbiamo scherzato ieri, abbiamo parlato delle guardie civiche volontarie, degli ometti che vogliono andare, ma lei non potrà da solo ogni volta vedere due persone assembrate dire disassembrati? Come fa? Ha bisogno di vigilanti, di aiuti? Cioè, ci vuole un bel personale per tenere d'occhio. Quanto è grande la sua porzione di spiaggia? Non è piccola, sono quasi 10.000 metri quadrati. In 10.000 metri quadrati, quanta gente ci vuole per essere sicuri che ci sarà comunque, la gente si assembra nei bar al centro di Roma, figuriamoci nella spiaggia di Fregene. Ma il problema è quello, perché a Fregene adesso sabato e domenica assembramenti ci sono stati dappertutto, in tutti i bar anche che non sono al mare. Cioè, la gente a volte è indisciplinata, a volte è disciplinata, poi a seconda chi trovi, chi ci crede, chi non ci crede. Cioè, noi si fa quello che si può, cartellonistica, e praticamente ogni volta dire quello che è successo. Quando si stava a casa, ogni 5 minuti le passava lo spezzone, siamo in allerta Covid, mantenete il distanziamento, lavate spesso le mani. In acqua poi sarà ancora peggio, perché tutti si usciranno a fare il bagno, e anche l'assistente bagnetti che dovrà andare a fare interventi con una mascherina. Cioè, diventa tutto. Cioè, quello che va con il pattino a riprendere la gente che affoga, ad andarci con la mascherina? Con la mascherina, sì. Ma la respirazione bocca a bocca come fa a farla? No, la respirazione bocca a bocca quest'anno non si fa, quello è uscito proprio fuori. Questo è interessante, questo è un dato nuovo, perché ci hanno fatto barzellette, cosa, c'è una pompa apposta per rimettere in sesto? Ma non è il pallone ambo, noi abbiamo sempre avuto in dotazione, c'hanno in dotazione tutti gli ospedali, in qualsiasi modo di autocolarsa per rianimazione, solo che... Quest'anno è abolita la respirazione bocca a bocca. Ma è una cosa normale, perché la persona butta fuori esalazioni, può gonfiare in bocca, ho fatto 10.000 cose diverse, solo che certo, noi siamo veramente, cioè io non sto tranquillo perché non so come evitare veramente l'assemblamento, e poi non sto tranquillo per il semplice fatto che non c'ho il mio futuro domani, cioè così messo è una cosa, c'ho una spada di ramo sulla testa. Sentiamo qualche altro ascoltatore. Barbara, provincia di Monza e Brianza. Buongiorno. Dunque, io mi sono messa un po' l'animo in pace, quindi quest'anno comprerò una guida di Monza, Brianza e dintorni, al limite Milano, città e dintorni, e farò piccole gite fuori porta di un giorno, magari con il pranzo al sacco, e trascorrerò le mie vacanze, credo, così. Quindi lei... normalmente come si comportava? Però qual è la differenza rispetto agli anni precedenti? Normalmente ogni tanto andavo in montagna, andavo dai parenti al mare, quest'anno farò così, starò a casa e farò delle... Ecco, ma cos'è che diciamo che il deterrente è troppo complicato, oppure è troppo complicato. Andare al mare a queste condizioni non ha senso secondo allora, lei? È troppo complicato, lo trovo anche un po' rischioso secondo me. E poi, come dice lei, uno arriva al mare con la mascherina, guarda il mare e teme di buttarsi in acqua. Ecco, si può procrastinare. Sarà divertente a settembre vedere le persone con la faccia che sembra il simbolo dello yin e lo yang. Cioè, ci sarà mezza nera e mezza bianca, perché se tengono la mascherina dal naso in giù è bianco. Quindi sarà un nuovo tipo di abbronzatura probabilmente. Esatto, cioè quella... Fiorella da Bologna, grazie Barbara. Fiorella da Bologna. Eccomi qua. Salve Nicoletti. Io volevo dire che, scusate, ma mi viene da ridere tantissimo su questa cosa, e chiedo scusa, è comica, perché io invece la trovo la riscossa dei vecchi proprio, perché dato che la maggior parte dei vecchi stanno bene... Ma i vecchi riscalda la pelle 10 volte gli altri, è mica tanto la riscossa, io sono vecchio, lo dico per me. Ascolta, sì sì, ma ascolti, siamo distanziati, perché all'aperto basta essere distanziati, non importa avere la mascherina all'aperto, non è obbligatoria, non è lo stesso nell'acqua. Cioè, e poi se mancheranno tutte le attrattive, se appunto sti ragazzi che pallone, bambini che insomma fanno quei giochi, cioè, il peggio per loro, forse gli mancherà questa aggregazione, ma per noi anziani, specialmente quelli come per esempio me e mio marito, a cui... Ma quanti anni avete voi? 72 io e 69 mio marito. Vabbè, siete quasi miei coetanei, adesso non vi buttate giù, sì, così. Beh, no, ma io non mi butto giù anche perché non li dimostro, non ce la sono contenta. Però quindi voi auspicate, diciamo, il trionfo del centro anziani, sì, cioè le spiagge italiane trasformate in centri anziani. Ma quindi certo, campi da bocce, campi da canasta, ballo liscio e via dicendo, che nemmeno si che può orrore, fare. Perché... Esatto, che abbiamo orrore, però, questo ha detto lei praticamente. Sì, la gente no, va lì per far casino, per ubriacarsi, per correre sulla spiaggia, ammucchiarsi di notte nella promiscuità dei pattini parcheggiati. Questo va a fare la gente il mare l'estate. Non è che la scusa. Andiamo a respirare l'aria buona. L'aria buona, sì, fino a un certo punto. Alessio da Pescara. Salve, buongiorno. Alessio. Buongiorno, sì, e grazie per lo spazio. Io volevo appunto dare questa testimonianza. Abitando a Pescara, fortunatamente, in una località di mare, con mia moglie abbiamo deciso quest'anno di non andare al mare perché abbiamo un bambino di circa 2 anni. Ce l'avete sotto casa? Come fate a non andare al mare? Ci abbiamo provato la settimana scorsa. Il problema è un problema anche di ordine civico tra le persone, perché abbiamo provato ad andare sulla battigia, orde di genitori attenti allo spostamento dei bambini, il secchiello non si può toccare e la palla non si può toccare e non ti avvicinare, e si rischia anche, se magari si trova un genitore una giornata abbastanza storta, oltre a rovinarsi la giornata di mare, anche ad andare a discutere con i genitori. Cioè i genitori stanno attenti che gli sconosciuti non si avvicinino ai bambini, no, per non contaminare. Assolutamente, ma il problema è che hanno... Beh, hanno anche ragione, però. Però hanno anche ragione, si mettono nei panni di un genitore. È che i bambini hanno un indice di motilità più sviluppato del medio bagnante. I bambini schizzano ovunque, quindi è un po' difficile tenerli a distanza. Ci vorrebbe un distanziatore di bambini fisico, una barriera antibambini, sennò come fa? Ecco perché dico che quest'anno hanno pensato un po' a tutti, ma tranne al nostro futuro. Hanno più investito sul nostro passato che sul nostro futuro. Io vedo orde di persone giocare a briscola, a carte, a bocce, e non abbiamo uno spazio ludico. Magari leccandosi le dita prima di buttare giù la carta. Leccandosi le dita prima di buttare giù la carta, capito? Anche, però veramente non ci sono spazi ludici per questi bambini. Ci hanno chiuso i parchi. Al mare non ci si può andare perché non possono girare o toccare nulla. E anche perché poi, a livello anche statistico, le famiglie che portano un pochino più di liquidità ai stabilimenti, certo, sono quelli con i bambini. È chiaro, sì, è chiaro. E tu blocchi tutto questo mare magnum di persone. Ecco, secondo lei quale dovrebbe essere la soluzione? Spiagge differenziate? Cioè dei grandi parchi giochi per i bambini, e così almeno. So che anche i bambini tra di loro non è così sano che alla fine si tocchino troppo, perché poi tornano a casa, anche loro a casa c'hanno i nonni. Cioè il virus passa dalle persone, questo si è capito. Sì, non è che è nessuno chiaro. È immune. Oggi ho sentito la notizia nei nostri giornali radio, un ragazzo di 18 anni gli hanno salvato la vita trapiantandogli i polmoni, aveva 18 anni, la categoria di persone che pensa a noi che ci importa tante roba da vecchi. Ci fermiamo un istante, tra poco. Melog. .800240024, stiamo cercando di capire come gli italiani quest'anno si organizzeranno per la questione vacanze al mare. Oggi parliamo di mare perché è, diciamo, il luogo per elezione destinato all'idea di vacanza, è quello che in questo momento è sottoposto alle più rigide regole di distanziamento e di sicurezza, tanto che molte persone, come ci stanno appunto telefonando e dicendo, penseranno bene quest'anno di darsi un'alternativa. Addirittura un ascoltatore di Pesaro, pur avendo la spiaggia sotto casa, dice: guarda, piuttosto che andare a litigare con i genitori che hanno i bambini, tutti stanno giustamente sul chi vive, attenti di non creare situazioni di rischio, quindi si sta più tranquilli probabilmente in posti meno frequentati. Michele Bianchi, il nostro amico titolare di uno stabilimento balneare a Fregene, questo comporterà però un aumento dei prezzi, come ci fanno pagare comunque i parrucchieri o altri esercizi, la sanificazione, anche i bar, cioè c'è la tassa sanificazione che va sul cliente, anche voi logicamente dovrete ritoccare i vostri prezzi, o sbaglio? Io sinceramente sto cercando di mantenere questi prezzi, poi vedrò un attimo in pianta quello che faccio, però molti l'hanno ritoccato, perché fra gente che devi prendere, il distanziamento, il problema del coronavirus, alla fine... Ma lei riesce a dirmi in percentuale qual è l'incremento di sue spese rispetto all'anno scorso con questa necessità e volontà ammirevole a parte minimo, sua? Minimo. Quindi 40%. Lei spende il 40% in più rispetto all'anno scorso, non è poco, certo. Però. E come fa a assorbirlo tutto lei? Scusi. Lei pensa, io per esempio devo sanificare tutte le attrezzature balneari su cui è stata la gente. Le sere, quando c'è, se io gli affitto una cosa, devo subito sanificarla. Deve essere subito pulita e messa lì. I bagni vanno sanificati 2 o 3 volte al giorno minimo, anzi 3 o 4 volte al giorno. Ma poi le docce, sì. Le docce esterne, penso, ogni volta che uno fa la doccia, e come fa a entrarci un'altra persona dopo? Bisogna dargli una botta. Le sdraio, gli ombrelloni, le strutture. Ci siamo, come si dice. Poi non potranno più girare quelli con i gelati, il cocco fresco, queste cose qua, figuriamoci. Per loro non sarà. Non lo so perché io ho visto. Quello sarà un problema. Ma per quello non è un problema mio, è un problema. No, loro. Sì, però sto pensando, sì, però fa parte, diciamo, delle componenti di una vacanza classica al mare. Questo è il discorso, non ci saranno più. L'unica cosa che posso dire è che c'è un problema grosso anche in acqua, cioè non soltanto fuori, anche in acqua. Poi il momento dell'aperitivo, se prima facevi 100 tavoli, adesso ne farai 50 se ci riesci. Ma poi a Fregene facciamo quegli aperitivi con le cannucce lunghe, 10 cannucce a bicchiere, come fate a fare quella roba lì? A quelle non si può più fare, perché poi bisogna anche mantenere un registro sulla gente che viene, quindi prendere nome e cognome e numero di telefono. Perché se dovesse succedere un contagio, quelli risalgono subito a dove sono andati. Quindi pensi tutti quelli che andavano al mare con l'amante, con l'amico, con la persona che non... adesso diranno, non andiamo a Fregene, che ci segnalano. 30 giorni, ma dappertutto. 30 giorni bisogna mantenere... Questo è una cosa inedita, forse non si è molto detta. Guardate che se andate al mare, con chiunque voi andiate, sarete comunque registrati per la necessità della salute pubblica. Non dico che questo è un male, nessuno ha nulla da nascondere, però considerate che anche il fine settimana, la fuga in spiaggia durante l'orario d'ufficio, la scappatella, sarà comunque più difficile. Valerio da Parma, buongiorno. Buongiorno. Allora? Io penso che questo gestore di bar, di spiaggia, abbia assolutamente ragione, e io sarei disposto a pagare anche qualcosa di più, magari con qualche giorno in meno di vacanza, ma sicuramente di essere estremamente sicuro e di fare una vacanza rilassata. E secondo me il problema, visto quello che stiamo vivendo in questi giorni, parlando di movida, parlando di masse di giovani che si spostano senza pensare a questi grandi problemi, io che ho una famiglia penso che non so se sarò tutelato da tutti questi giovani che oggi, io come sono stati definiti tempo fa da qualcuno, in malo modo, i bamboccioni italiani, rischiano ancora di far saltare tutta l'economia che sta lentamente ripartendo. Ma più che i bamboccioni, io mi orienterei verso la classe del bimbo minchia. Il bimbo minchia è il quarantenne, trentenne, quarantenne, giovane con tanti bambini, che ancora si sente bambino pure lui, che trova un livello omogeneo di percezione della realtà rispetto ai suoi bambini maleducatissimi. Quella, diciamo, è la componente più esplosiva. Poi lei mi ha fatto venire in mente un'altra diciamo, accessorio della vacanza al mare, le discoteche. Le mega discoteche cosa faranno? Cioè, gente va al mare soltanto per dormire il giorno e andare la notte in discoteca. Cosa faranno questi? Sarà interessante saperlo. Intanto Fabrizio, provincia di Cuneo. Buongiorno, grazie. Sì, buongiorno. Grazie. Senta, no, praticamente io volevo dire questo. Io sono un imprenditore e premetto che mi dispiace molto non poter contribuire a queste persone che apriranno con tutti i divieti, spiagge, eccetera, eccetera. Però il governo ha creato un clima di terrore, per cui c'è gente che gira con la mascherina in macchina e questi qua credo che non andranno neanche nel giardino di casa perché sono terrorizzati. Quindi, creando questo terrore, ma io non li prenderei nemmeno in giro, perché io sono anche uno di quelli, dico la sincera verità, cioè, devo dire, uno ha anche diritto di dire io voglio essere salvaguardato, voglio stare più tranquillo. Poi sono due gli atteggiamenti, io non mi ergo a giudice di nessuno. L'estremamente attento, che non fa male a nessuno, attento, non nuoce. L'estremamente disinvolto, che potrebbe creare qualche rischio, preferisco stare dalla parte dell'estremamente attento. Gli estremamente attenti potranno sembrare fastidiosi, pesanti, boy scout, però alla fine, nel senso di ligi alle regole, però alla fine sono quelli che maggiormente tutelano la salute generale anche degli altri. Monica da Torino. No, salve. Io volevo un attimino attirare l'attenzione sugli adolescenti in questa situazione qua, perché ho un figlio di 13 anni e credo che la sua categoria sia quella che sta forse soffrendo di più per la situazione, per tutte le restrizioni. Sì, però anche di questa storia, onestamente, mi sento, soffro quanto sì. Soffrono gli altri. Cioè, i loro sì, nonni però, hanno visto le bombe sulla testa, hanno visto i campi di sterminio. No, sicuramente. Cioè, soffrono. Mi sembra che sono mediamente abbastanza accessoriati per avere dei lenitivi alla sofferenza. Soffrono quanto gli altri. Assolutamente sì. Però se lei parla dei videogiochi, di internet, di queste cose qui, sì. Per carità, sono dei rifugi. Però credo che anche relativamente alla faccenda mare, spiaggia, tenere sotto l'ombrellone o comunque a distanza di sicurezza un ragazzino di 13 anni che ha, per quanto io trovo che siano giuste le restrizioni. Vabbè, mica viviamo senza solo... cervello, 13 anni è già una persona che ha un livello di coscienza. No, infatti le dico, elevato. Mio figlio per esempio è uno molto attento, l'abbiamo educato in un certo modo, è molto attento, lui se esce mette la mascherina, fa tutto quanto, però lei capisce che è un'età in cui... La socializzazione è molto importante, ci sono gli ormoni che cominciano a spingere e sinceramente mio marito e io abbiamo deciso di non portarlo. A 13 anni, tanto mediamente gli ormoni, diciamo, è un problema che si risolve autonomamente ancora, quindi continuerà ancora per un'altra stagione a arrangiarsi da solo e poi troverà anche lui la strada della salvezza, che devo dirle. Non mi sembra il problema principale in questo momento quello del tredicenne che non può socializzare di fronte al sistema generale della salute pubblica. Ci sono tantissime persone che hanno chiamato, devo dire, sembrava un tema futile, ma in realtà nel nostro immaginario generale da il boom in poi siamo abituati che le vacanze comunque fanno parte dei nostri diritti e spero che nella percentuale che sarà possibile tutti avranno perlomeno l'occasione di poter lambire questo clima di uscita dal mondo, uscita dalla banalità della situazione quotidiana. A domani.